Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Disegnare il vento, l'ultimo viaggio del capitano Salgari, l'ha scritto Ernesto Ferrero ed è pubblicato da Einaudi. È un romanzo sulla vita di Emilio Salgari, il creatore di Sandokan e il Corsaro Nero, nel centenario della morte. Non una biografia in senso stretto, ma un vero e proprio romanzo che dà spazio alla fantasia dell'autore. Il libro è stato anche finalista al premio Campiello e si è classificato terzo. Ma sentiamo com'è nata l'idea del romanzo. È nata 15 anni fa perché quando siamo andati ad abitare nel condominio che fu l'ultimo domicilio dello sfortunato capitano Salgari, e io non sapevo molto di lui, nessuno sapeva molto di lui fino a non molti anni fa, e mi sono chiesto chi fosse questo singolare vicino. Singolare perché, pur essendo famosissimo, amato da generazioni italiane che lo adoravano, viveva a Torino, nella precollina, un chilometro fuori dal Dazio, completamente ignoto, autoemarginato, autoisolato, e mi sembrava un caso abbastanza romanzesco. Poi la cosa più romanzesca e drammatica di tutti è questo suicidio così spettacolare al modo di un antico samurai e poi eseguito con una violenza, con un odio per se stesso che francamente colpisce. Allora ho pensato che lui, che aveva inventato centinaia di personaggi romanzeschi, il più romanzesco era lui, e così ho cominciato a lavorarci un po'. Che tipo di uomo era Salgari? Salgari era un uomo semplice, evidentemente con grossi problemi con la realtà, piccolo, molto muscoloso, dedito ad attività sportive, che evidentemente si sentiva poco considerato e poco stimato dai suoi contemporanei. E di qui ha messo in atto questa strategia di rivalsa e di rivincita che passava per la scrittura. Allora, dopo 10 anni di giornalismo, ha trovato la sua strada prima nel feuilleton, poi nei romanzi per ragazzi, in questo indirizzato molto sagacemente dagli editori, e lì si è dedicato a inventare questi mondi virtuali in cui si trovava così bene, proprio perché in realtà aveva dei problemi nella vita reale, che da lì non è più uscito. E quando ha deciso di uscirne è stato per punirsi e per uccidersi. Si sa appunto che Salgari raccontava storie di avventure, storie di posti lontanissimi, però lui di fatto non aveva mai viaggiato più di tanto. Com'è che riusciva a descrivere quei posti in maniera così precisa e dettagliata? Andando in biblioteca, documentandosi, e poi naturalmente assecondando le passioni, le sue passioni enciclopediche, che erano quelle dell'epoca, insomma, convinta di riuscire a mappare, a classificare, a ricostruire tutto. Poi però su una base documentaria abbastanza solida, poi magari non così attendibile, perché il famoso giornale dei viaggi e delle spedizioni era inventato per buona parte da scrittori che asserivano di essere stati nel Borneo, anche loro non si muovevano da casa. Ecco, sulla base di questa documentazione ci metteva del suo, cambiava, trasformava, storpiava nomi, ne prendeva, li adattava, e poi lasciava cadere tutto questo materiale esotico nei suoi libri con una tale nonchalance, con una tale naturalezza, che nessuno avrebbe mai dubitato che non si era mai mosso da casa. Qui, devo dire, è stata la sua grande bravura. D'altra parte, sappiamo benissimo che i veri viaggi si fanno all'interno di noi stessi, e di solito il viaggiatore non capisce niente se non arriva sui luoghi già molto preparato, cioè sapendo che cosa deve guardare, che cosa deve vedere. Salgari disegnava anche, per esempio, le piantine dei luoghi che descriveva. Infatti questo titolo, Disegnare il vento, sta proprio ad indicare la sua passione anche per il disegno, giusto? Sì, sì. Lui aveva invece quasi un atteggiamento contraddittorio nei confronti della scrittura. Ma dunque sì, gli piaceva moltissimo disegnare navi, battaglie, e appunto gli faccio scoprire che in fondo, disegnando tutte queste navi, queste vele, queste battaglie, gli piaceva disegnare il vento, cioè disegnare la forza invisibile, la vita, insomma, questa vita così potente che non si vede ma trascorre impetuosamente per, per tutte le cose. No, lui era un artigiano, il giornalismo gli aveva insegnato molto, gli ha insegnato a scrivere chiaro e rapido e anche abbastanza preciso, e ricordo qui tra l'altro che vengono dal giornalismo anche collodi di Amicis, cioè il giornalismo è stata una scuola importantissima per questo trio. Poi naturalmente poveretto, non aveva tempo di limare, non aveva tempo di sistemare la pagina perché doveva consegnare, ecco, per questo. E quindi buona la prima, scriveva direttamente in bella, pagine molto nitide, il tipografo non poteva sbagliare, e questo è quello che lui invidia i suoi colleghi scrittori e scrittori, quali invece avevano tutto il tempo di rifinire tutte le pagine che volevano. È vero quindi che Salgari era costretto ad un super lavoro dai suoi editori? Ma più che dagli editori, da se stesso. Io credo che la sua scrittura fosse una forma di bulimia, fosse in definitiva una patologia. In fondo svendeva questi libri fino a un certo punto, perché poi gli ultimi anni guadagnava piuttosto bene. Insomma, quindi questa faccenda degli editori ladri non è assolutamente vera. In realtà poi quello che gli interessava non era tanto incassare i soldi, ma non uscire dal mondo fantastico che lui aveva inventato. Credo che questa sia poi la vera ragione. Andare in un mondo fantastico per uscire un po' dalla propria vita, si diceva prima. Aveva anche una vita familiare complicata, Salgari. La moglie aveva dei problemi? La moglie aveva dei problemi, ma credo che il problema della moglie fosse lui, cioè certamente un uomo difficile da reggere. Poi, insomma, quattro figli, insomma, fatto sta che la povera donna nella primavera del 1911 ha una crisi di nervi più violenta del solito, viene ricoverata in manicomio, cosa che credo all'epoca avveniva molto facilmente, specie per le donne. Insomma, le donne non si potevano permettere di avere delle grandi crisi perché venivano immediatamente archiviate. Il grande trauma è che lui non le può offrire una casa privata, insomma deve ricorrere all'assistenza pubblica, dove questa sventurata donna resterà poi 10 anni, e questo è stato il colpo definitivo su una sindrome depressiva abbastanza grave. I libri di Salgari hanno affascinato intere generazioni di ragazzi, ma anche di adulti. Secondo lei qual è il segreto di questi libri? Il segreto di questi libri è che, come scrive Claudio Magris, che è uno dei grandi estimatori di Salgari, che sia pure in forme molto semplici, primitive, se vogliamo anche un po' rozze, offrivano ai lettori, come dire, il senso della totalità, il senso della globalità, il senso della vita e dell'energia vitale che sta nelle cose, e creava una specie di ipnosi. Leggere i romanzi di Salgari è come guardare il mare. Certo, le onde sono ci assomigliano più o meno tutte, ma noi non riusciamo a staccare lo sguardo da questo spettacolo. Documentandosi per scrivere questo libro, c'è qualcosa che ha scoperto di Salgari e che non immaginava? Non ho scoperto quasi tutto, perché sapevo pochissimo di lui, sapevo quello che più o meno sanno tutti. Però devo dire, sì, ho utilizzato una parte documentaria che non è peraltro molto, molto robusta, perché non c'è una sola intervista, c'è qualche lettera, ma non c'è moltissimo. Devo dire, credo però, come spesso mi accade, che le cose migliori sono quelle che ho inventato, cioè le testimonianze verosimili funzionano poi meglio di quelle vere, ed è proprio attraverso il verosimile che si riesce ad arrivare più vicino a un personaggio, almeno lo spero, non devo dirmelo da solo, ma insomma così a occhio mi sembra che funzioni meglio l'inventato del documento. Che eredità ha lasciato Salgari nella storia della letteratura italiana? Ma ha lasciato moltissimi imitatori, ma come dire, soprattutto ha lasciato una grande, come definire, una grande accensione immaginativa, perché ha lasciato moltissimi figli, non perché scrivano come lui, nessuno poi ha scritto come lui, ma penso, da Pavese a Parisi, allo stesso Magris citati, a Pontigia, tanti altri, hanno, credo, capito sulle pagine semplici di questi romanzi di quali prodigi era capace la letteratura. Ecco, questo credo che sia stato il suo grande merito. Poi certo che nessuno può scrivere come lui, né allora né tantomeno oggi, ma questa capacità di invenzione, che, attenzione, non è che discende dal cielo, viene costruita artigianalmente con grande cura e con grande attenzione, con grande fatica, perché nulla,